Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Valerio Castronovo. Buonasera professor Castronovo. Buonasera a tutti voi. Valerio Castronovo, storico, uno dei più importanti storici dell'economia e dell'industria italiana, ha scritto numerosi libri sulle grandi imprese, in particolare sulla Fiat, ma anche sulle altre imprese, è in questi giorni in libreria con due libri. Il primo parla della nazionalizzazione dell'energia elettrica, il gioco delle parti, edito da Rizzoli. Il secondo è il primo volume della storia dell'IRI, è il primo volume di una collana curato appunto dalla fondazione dell'IRI, che è l'unica cosa che è sopravvissuta dopo la chiusura negli anni 90 dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale. E questo primo volume parla dei primi anni dalla costituzione dell'IRI del 1933 al 1948, e di questo parliamo questa sera con Valerio Castronovo. Ecco, professor Castronovo, innanzitutto delineiamo un po' questa collana. Sarà una collana che si svilupperà nei prossimi mesi, sarà composta, mi pare, da 5 volumi. A 5 volumi si arriverà, io faccio parte del comitato scientifico con altri 3 colleghi, e si arriverà in pratica sino alla liquidazione, al momento della liquidazione dell'IRI, che è avvenuta in pratica poi, di fatto è avvenuta molto prima, la privatizzazione di banche e imprese che facevano capo all'IRI, e poi diciamo l'atto finale è avvenuto nel 2000 in pratica. Questo primo volume intanto è importante. Perché? Perché per capire come mai sino al 1990, 92, 93, la nostra è stata una sorta di economia mista fra mano pubblica e mano privata, bisogna risalire alle origini, agli esordi dell'IRI del 1933, subito dopo la grande crisi, quella del 29, e poi in pratica seguirne, diciamo, le vicende sino al 1948, quando in pratica si decide la sopravvivenza dell'IRI, la si riorganizza, c'è una riforma istituzionale e poi c'è il grande rilancio. Si pongono così le premesse poi del ruolo imminente che le imprese dell'IRI hanno svolto nel corso, diciamo, del miracolo economico. Ecco, sono, ecco, gli anni, certo, soprattutto sono gli anni, poi, 50 e 60 che abbiamo vissuto più da vicino. Io ritornerei un po' alle origini, proprio perché è interessante vedere queste origini dell'IRI da un problema strettamente bancario e finanziario. L'IRI è nato, lo spiega molto bene in questo libro, dalla necessità di salvare le banche italiane, il credito italiano, la banca commerciale, che erano praticamente fallite in quel periodo, anni di grande depressione. Ecco. Sì, erano fallite, ma il problema è che avevano in pancia queste due banche, anche il Banco di Roma, che era, diciamo, un'altra banca mista, diciamo, su di deposito e di investimento sul modello tedesco, e queste banche avevano in pancia, soprattutto la commerciale, ma anche il credito italiano, moltissime azioni nel settore industriale, cominciare dall'elettricità, siderurgia, cantieristica, il settore del tessile, seta artificiale, insomma moltissime imprese. Quindi quando si decise di risanare, di salvare le banche, fu una decisione che è assunta poi tra il 32 e il 33, insomma nei documenti dell'IRI si dice che Mussolini aveva vissuto ore angosciose di fronte allo spettro di un default delle banche, perché tutto questo avrebbe incrinato anche le fondamenta del regime fascista. E a questo punto, risanate le banche, si tagliò il cordone ombelicale che c'era fra banche e imprese, e lo Stato dovette occuparsi poi di gestire le imprese industriali che non riuscì a rivendere ai privati una volta rimesse in sesto. In effetti all'inizio il presidente dell'IRI, Alberto Beneduce, poi il direttore generale accanto a lui era Donato Menichella, che poi sarà il governatore della Banca d'Italia nel dopoguerra. L'intenzione di Alberto Beneduce era in pratica di dismetterle e di rivendere, di passarle e riconsegnarle ai privati. Se non che in quel momento siamo in piena crisi, una crisi che si prolungherà in pratica fino al 36-37, non è che anche le grandi imprese private avessero mezzi e risorse. E così l'Italia si è trovata. Le imprese private che cercavano in alcuni casi di realizzare delle cordate, dei pool, puntarono sulle imprese elettriche, sulle industrie elettriche e sulle industrie telefoniche, sulle imprese telefoniche, che erano, diciamo, i settori anche più appetibili. e quelli di sicuro reddito, di sicura rendita, se non che in alcuni casi offrivano in pratica delle condizioni per la vendita che Mussolini in persona ritenne e giudicò inaccettabile assolutamente, ed è talora parole di fuoco che vengono riportate in questo volume nei confronti di Agnelli, Pirelli, Donegani, insomma, e altri allora esponenti della grande impresa. E così in pratica Liri finì per tenersi in pancia gran parte della siderurgia, gran parte della cantieristica, gran parte della meccanica pesante, gran parte dei trasporti marittimi e altro ancora, al punto che l'Italia fascista ebbe un'economia, quella più statizzata nel mondo occidentale dopo quella sovietica. Ecco, lei lo dice molto chiaramente nell'introduzione del volume, il fatto che l'Italia non aveva tanto un'economia vista, aveva un'economia di fatto in gran parte statale, tutte le grandi imprese, ad eccezione della Fiat, erano di proprietà del Liri. Fiat, Montecatini, Edison e Pirelli, ecco, diciamo ecco. Così, ecco. Questo era il quadrilatero. Peraltro anche ecco. Quelle che erano, lei accennava appunto l'interesse dei privati delle industrie elettriche, anche quelle che erano industrie private poi nel secondo dopoguerra sono diventate industrie pubbliche con la nazionalizzazione di cui parla, peraltro in un altro volume di cui non parliamo per oggi. Io vorrei tornare un po' appunto alla nascita, che poi l'approfondimento che viene realizzato attraverso i saggi che ci sono in questo volume, chiedendole, pur con l'arbitrarietà della domanda, quali paragoni si possono fare tra quella crisi dei primi anni 30 e l'attuale crisi economica? Ma guardi, diciamo, all'inizio in Italia il regime tardò a comprendere, diciamo, la natura e la portata gravissima della crisi. D'altra parte la crisi giunse in ritardo in Italia fra il 31 e il 32, non subito dopo l'ottobre del 29. All'inizio il regime fascista praticò più o meno una politica deflazionista, non dico analoga a quella della Repubblica di Weimar, ma cosa fece? In pratica provvide a comprimere i salari, cioè insomma a ridurre d'autorità, ma lo poteva fare un regime totalitario. Dall'altra stabilì un calmiere dei prezzi, anche questo lo poteva fare perché era un regime totalitario, e badò a difendere la stabilità monetaria, ma sulla base della lira rivalutata nel 26 a quota 90 del cambio con la sterlina, per ragioni di prestigio nazionale. Quota 90 era il cambio dell'anteguerra, prima della grande guerra. Il regime teneva a dimostrare che, insomma, non aveva nulla da invidiare con il regime lì, con il sistema liberale. E questo fece sì che l'Italia arrivò nel 32-33 in piena recessione. E quindi quando Liri intervenne, in pratica le banche erano quasi al tracollo, i titoli azionari di molte imprese erano caduti verticalmente e soprattutto erano cadute le esportazioni, perché con una lira sopravvalutata, certo, mentre già in Gran Bretagna e in Francia avevano svalutato la sterlina e il franco, sia pur moderatamente, e noi ci tenevamo un cambio a quota 90 che era già sopravvalutato negli anni, nella seconda metà degli anni 20. E quindi di qua anche il crollo di imprese dinamiche come erano quelle esportatrici, soprattutto le imprese tessili e quelle meccaniche. Ecco, ma allora sintetizzando la cosa, sicuramente la situazione è completamente diversa. Allora era una necessità, tanto che anche un liberale come Einaudi, le ricorda, approvò in fondo questo salvataggio delle imprese. Adesso non siamo a questo livello, le banche sono un po' più solide. No, certamente non siamo a questo livello. È vero che stiamo scivolando verso la recessione, come sappiamo, no? Però naturalmente le cause, le circostanze, le condizioni sono diverse, facciamo parte dell'Europa. Naturalmente alcuni in questi giorni hanno detto, sono chiesti, ma non è possibile oggi ricreare un IRI? Ma assolutamente no, non fosse altro perché le direttive europee ce lo impediscono, e comunque, diciamo, la privatizzazione come la liberalizzazione del mercato sono ormai dei fenomeni irreversibili, come sappiamo. Indubbiamente, quindi grazie a Valerio Castronovo per averci illustrato questo libro, il primo volume, il primo di 5 volumi dedicati alla storia del Liri. Il primo volume va dal 1933 al 1948. Valerio Castronovo è già stato professore di storia contemporanea all'Università di Milano e di Torino, collaboratore del Sole 24 Ore, innumerevoli libri dal profilo storico sul fronte fronte della, proprio della storia economica, della storia industriale italiana. Questo libro ha 616 pagine, costa 35 euro ed è edito da La Terza. Grazie al professor Castronovo. E ai suoi collaboratori. E ai suoi collaboratori, indubbiamente. Grazie professor Castronovo. Bene, buonasera a tutti. Dopo aver parlato di storia economica con il professor Valerio Castronovo, che ci ha parlato della storia dell'IRI, andiamo ancora più indietro e parliamo proprio di una storia, la storia della, in fondo della libertà civile, con un libro edito da Liberi Libri di Peter Forskal, che è uno svedese, in realtà un islandese, ma quando l'Islanda era posseduta dalla Svezia, che nel 1759 ha messo insieme dei pensieri sulla libertà civile che oggi appunto Liberi Libri ci ripropone. Perché questo libro può essere interessante anche da un profilo economico? Ecco, e quanto spiega anche l'editore Aldo Canovari nella sua nota introduttiva sul fatto che la libertà fondamentale, quindi la libertà di comunicazione, la libertà di avere un'espressione, di poter comunicare, quindi anche la libertà di stampa, è un elemento fondamentale anche di quella che è attualmente quello che chiamiamo la globalizzazione. E come scrive Canovari, questi pensieri sulla libertà civile di Forskal, come del resto la ricchezza della nazione del suo connazionale Cridenius, piccoli, insospettati gioielli dell'illuminismo scandinavo, attestano che il vituperato oggi da molto fenomeno della globalizzazione economica e culturale è una realtà assai antica e assai benefica, perché realizza la spontanea e pacifica comunicazione, lo scambio, il trasferimento, la condivisione delle merci e delle conoscenze, in definitiva della libertà. Quindi un editto dei pensieri sulla libertà civile e soprattutto sulla libertà di comunicazione e sulla libertà di stampa. Quindi un fenomeno che forse adesso diamo molto per scontato, diamo molto come una cosa che è apertamente presente nell'ambito delle società attuali, ma che invece ha richiesto negli anni, e soprattutto negli anni quando si è aperta la società, quando è iniziata anche la possibilità tecnica di comunicare, di stampare i giornali, di avere delle diverse comunicazioni, ecco, ha richiesto comunque una battaglia, una battaglia civile, una battaglia anche politica da parte di quanti potevano appunto portare avanti questi ideali. Questo stesso piccolo libretto, questi pensieri sulla libertà civile, vennero posti all'indice, vennero sequestrati, vennero censurati in un certo senso dalla Svezia di allora, e solo alcuni anni più tardi, 7 anni più tardi, grazie appunto alle battaglie anche di Peter Forskal, proprio in Svezia venne creata una legge sulla libertà di stampa, una legge appunto che pose fine alle vessazioni e ai problemi che c'erano fino allora alla libertà di comunicazione. Quindi questo piccolo libro di Peter Forskal, Pensieri sulla libertà civile, edito da Liberi Libri, ha un prezzo di 14 euro, ha un centinaio di pagine, esattamente 110 pagine, si legge molto facilmente proprio perché, essendo un libro storico, parla con estrema semplicità dei problemi del Settecento, ma che sono problemi su cui merita riflettere, per su queste battaglie è fondata anche la nostra libertà. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per settimana prossima.